Eccoci di nuovo con l'autrice, attrice Giorgia Mazzucato per parlare del spettacolo Godot che sarà al Teatro Stabile di Roma dal 16 al 18 febbraio. Giorgia, ben ritrovata. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie. Allora, intanto per chi non conoscesse questo capolavoro, raccontiamo un po' in breve la sua essenza. Allora, guarda, quello che facciamo noi al Teatro Stabile di Roma, 16, 17, 18 febbraio, è in qualche modo uno spin-off di Aspettando Godot di Beckett. Noi sappiamo che il capolavoro beckettiano tratta appunto di questo fantomatico Godot che non pre si presenta mai a questo appuntamento con Vladimir e Estragon, un capolavoro straordinario non solo del teatro ma della letteratura in generale, che ci insegna ad attendere. È la prima volta nella storia del teatro in cui non succede nulla e si attende e basta. Quello che mettiamo noi in scena questo weekend al Teatro Stabile è Godot, quindi per la prima volta si vede Godot. Quello che viene richiesto al pubblico quando entra in sala è di compilare un bigliettino in cui c'è scritto, c'è questa domanda con scritto: come mai Godot non si è mai presentato all'appuntamento con Vladimir Estragon? Quindi il pubblico dà libertà totale alla propria creatività e immaginazione nel decidere il motivo per il quale finalmente si capisce Godot non si sia mai presentato. Viene scelto da me, che faccio regia dello spettacolo, l'input più interessante, a mio parere. Gli attori non sanno assolutamente nulla, lo sanno direttamente quando sono in scena. Quindi quello che vediamo in scena, serata per serata, quindi tre serate totalmente diverse, perché è appunto un teatro interattivo di improvvisazione, è la storia di Godot e del motivo per il quale non si sia mai presentato. Senti, una cosa che si nota vedendo la locandina di presentazione è la presenza di diverse donne sul palco, il che per questo lavoro è un po' un'anomalia. Abbiamo cercato di rendere tutto anomalo. È anomalo che ci sia Godot, e quindi, se si vuole, in una produzione di ispirazione beckettiana, solo ispirazione, è anomalo che ci siano tutte queste donne, perché appunto i personaggi di Aspettando Godot sono tutti maschili, in particolare Vladimir, Certo. ma non solo. Quindi c'è un cast non tutto al femminile, ma in prevalenza femminile c'è Maria Beatrice Lonzi, Francesca Mareggiato, Simona Faustino Ventapane, che sono delle attrici estremamente talentuose. Tra gli uomini, poveretti, non bistrattiamo neanche loro, c'è Cristiano Marazzi, che in particolare è Godot, e Francesco Guglielmi, che fa tra l'altro all'inizio una presentazione proprio su Aspettando Godot. Infatti, quindi c'è un inizio introduttivo di presentazione sull'opera di Beckett per inserire tutto il pubblico in quell'ottica, per poi poterne anche in qualche modo godere di più nel vedere Godot che arriva per la prima volta. E arriva per la prima volta secondo una loro creazione. Viene proprio ringraziato lo spettatore nel pubblico che ci ha finalmente svelato quale fosse il problema. Giorgia, ci racconti anche in breve com'è stata l'origine e lo sviluppo di questo progetto? Di Godot, proprio dello spettacolo? Sì. Ma quella è stata una mia. Era da un bel po' di tempo che io mi stavo, in quanto regista e autrice, ancora prima che attrice, che mi stavo avvicinando sempre di più, anzi riavvicinando dopo gli studi universitari a Beckett, perché è appunto un genio senza tempo, e mi stavo riavvicinando e mi sono proprio domandata se chi e se potesse dare questa risposta, perché negli anni, in questi 50 anni, se ne è scritto di tutto e di più. Appunto, Godot esiste, Godot sta per go e dot, quindi andare, fermarsi, sta per God, ce ne sono dette di tutto e di più. Quindi la mia ispirazione, dato che comunque al Teatro Stabile mettiamo in scena degli spettacoli autoprodotti da noi che hanno come stampo prevalente appunto il teatro interattivo, è: proviamo a unire le due cose, cioè questo mio particolare momento, diciamo, di studio di Beckett con teatro interattivo, quindi con il pubblico che decide come va, chi faccia cosa dirà. Proviamo a unire tutto questo. Teatro dell'assurdo? In qualche modo sì. Eh sì. È un teatro dell'assurdo che buca la quarta parete, Sì. perché ci sono tutte Giorgia, queste dopo questa anomalie. tappa romana. Non c'è male. Senti, e a questo punto ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più. Assolutamente sì. Allora, il sito di riferimento è www.teatrostabiledi.it e per prenotare il biglietto che viene conseguentemente considerato ridotto potete mandare una mail a biglietti@lasiti.it. Giorgia, io ti abbraccio, a risentirci presto e in bocca al lupo. Un abbraccione a te e a tutti, grazie mille, grazie, grazie, viva il lupo.